poi seguo un po' i discorsi del Dalai Lama, Thich Nhat Sì. Hanh, almeno su delle cose. Sono persone Ecco, ma io eccezionali. mi occupo di quello, non mi occupo del taoismo tradizionale, però Ma mi sono persone eccezionali, questo ricordo sicuro. comunque, sono persone, Thich Nhat Hanh, cioè, è una persona che non ci consegna l'idea, non parla mai di quegli aspetti del buddismo, Sì. per cui hanno selezionato probabilmente delle cose che sono l'essenza, un po' come nella tradizione, come stai facendo tu nella tradizione religiosa, tu stai cogliendo il nucleo. E nel buddismo c'è un nucleo, C'è un quindi nucleo, c'è un nucleo utile, no? È un certo, nucleo utile che l'utile sicuramente sì, c'è da utile che è raggiungere. Ecco, messo. comunque c'è una cosa, che il cristianesimo è l'atto della vita, cioè l'indirizzo alla vita, alla pienezza, alla perfezione. E alla storia. Ah, quindi E la alla storia. storia c'è il valore della storia, e questo vuol dire che nel buddismo ci No, sono c'è. dei valori stupendi, però c'è Sì. ad esempio tutto l'iter storico non ha valore. Poi E adesso certo, poi noi ne parleremo. sì. Per me vuol dire, cioè, ti dico, quando, cioè, io ho avuto attraverso questa esperienza una visione così forte della storia, cioè come dire, se l'inizio della vita la dobbiamo a un creatore, l'inizio che la vita sia, e poi la vita vuol dire si è fatta con tutte le sue scelte, quindi con tutte le sue scelte, certamente il nostro livello di umanità lo dobbiamo a tutti gli esseri umani. Hanno Certo, lavorare. tentato di essere un pochino più di quel che sono. Quello Quindi bisogna, sono sì. i nostri padri, cioè io quando dico il Padre nostro dico che sei nei cieli, ma tutti padri e Tutti i madri che padri e avete madri che sono. sofferto e che ci avete regalato questo livello di umanità. Hanno Capito? lavorato per Questo, ecco, questo. lavorate per darci questo livello di Certo. umanità. Ecco, questo è un po'. E io vedo nella storia, proprio la storia la vedo arrivare, voglio dire, a un compimento, non solo Tutta cioè la persona può perfezionarsi, ma anche la storia la ha un storia, punto di sì, arrivo certo, che è veramente realizzare la giustizia e sì, la giustizia l'amore, è l'amore, e l'amore che fa finire il dolore e ci permette, voglio dire, di fare come Mamma Maria, di andare al di là della morte, cioè di distruggere, non andare al di là, di distruggere la morte, anche quella biologica. Cioè, beh, questo vuol dire, questo è il motivo per cui io ho avuto tutti i miei guai, però devo dirlo perché cioè, è anche quello che dà senso alla vita e alla storia, cioè alla vita personale e a tutto quello che noi facciamo per amore degli altri, perché gli altri non sono solo quelli che ci sono adesso e quelli che verranno, ma anche quelli che ci sono c'erano tutti stati. prima. Cioè, questa comunione io la sento forte con tutti quelli che ci sono stati e anche quelli che verranno. Cioè, mi sento, voglio dire, mi sento frutto di loro e sento, voglio dire, li sento, cioè, il futuro lo sento anche dentro di me, anche gli esseri umani dentro di me, come io posso aprirgli nuove condizioni o ricondannarli, voglio dire, alla sofferenza. Cioè, ecco, questo è il mio contributo, che dando a me la gioia, la serenità, la comprensione, lo do anche a quelli che verranno. Ecco, questo è quello, gli uomini di buona volontà oggi devono fare questo, Eh sì, tu. Eh se hanno buona volontà. E sì. se non ce l'hanno, fuori dai piedi. Infatti, Scusate la brutalità. No, Ma no, non c'è questo tanto tempo. è Sì, un perché tempo. capito, proprio se siamo agli sgoccioli, voglio Siamo agli dire, di un sgoccioli. salto qualitativo, voglio Un dire, salto o di una qualitativo. regressione. Sì, siamo lì. Agli sgoccioli di un salto qualitativo o di una regressione. Quindi bisogna anche stringere un po' le fila. E quindi tu stai dicendo, vedo se ho capito bene, che se fai un gruppo che vuole lavorare in questa direzione, bisogna un pochino anche a un certo punto dire, beh, ma tu se continui così, fuori. Perché? Non farmi perdere tempo che ne ho già perso Perché abbastanza. sì, Sì. Sì, perché cioè, voglio dire, hai poi un altro livello di comprensione, perché ognuno ha i suoi tempi, però devi distinguere e devi anche fra distinguere. coloro che sono tesi nel progetto e quelli che lo stanno ancora cercando. E stanno ancora cercando, è proprio così. Perché gli errori che io quasi sempre, cioè praticamente sempre commesso nella vita, è di mettere un po' tutto insieme. Per cui vedevo delle persone che tiravano giù e dicevano, beh, continuiamo, però tirano giù e tirano no, giù. Anch'io voglio dire li metto tutti insieme, però c'è con la piena consapevolezza che io posso lavorare con alcuni al punto, progetto e con altri devo un altro, sì, non è. Devi tirarli, non sai, non sono, capito? No, forze del progetto, no, ma devi trascinarli. Non sono forze del progetto. Questo sì.